24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo come la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Se dice, hai fatto tutto questo, però fai le primarie anziché le preferenze, io preferivo le preferenze. Oh, vabbè ragazzi, chiamate Goldrake, chiamate Goldrake, la leggetta l'aveva fatta lui. La domanda finale Cazzullo era. Più di così non poteva arrivare. Sì. Cari italiani, siete pronti a chiamare Goldrake? Avere un numero di telefono, magari un sms glielo possiamo mandare. Goldrake, dove vai a trovarlo? Chi lo sa? Chi lo sa dov'è Goldrake nello spazio interstellare? Cari tutti, buongiorno! Qua iniziano le prime, io ve l'avevo detto, non si vende mai la pelle dell'orso prima di averlo ucciso. D'altronde oggi era abbastanza prevedibile, Corriere della Sera, legge elettorale, primi ostacoli. Ma come, non è ancora partita la legge elettorale? Siamo nella 38esima settimana decisiva per la riforma elettorale, qui siamo a 24 mattino con Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè è tornato oggi in regia e siamo tutti qui a parlare di queste cose, mentre qualcuno fa notare, non so perché Stefano da Udine mi manda i saluti dicendo che la coppa è indigesta, ma so di cosa parla tu, Peter, so, stasera c'è il Milan in coppa, no, con l'Atletico Madrid giochiamo in coppa tra un po', boh, non lo so, non so a cosa si riferisca. Comunque apriamo il Parlamento, dai, che sono le 6:34 minuti. Il caffè ben ritrovati a tutti, ovviamente anche a Nicole Minetti che offre sempre il caffè, la ringraziamo per questo, a tutti quanti. Voglio salutare Vladimir Luxuria, buongiorno, che si trova a Napoli. Cosa ci fai a Napoli? No, sono a Napoli perché mi hanno invitato a presentare il mio romanzo, L'Italia Migliore. Ah, ecco perché, giustamente, giro di presentazioni. Allora, da Napoli alla Padania, che bel salto, da Napoli alla Padania. Saluto Aurora Lussana, direttrice della Padania. Buongiorno a te Milan, come sempre un caro saluto agli amici di Radio 24, la seconda radio più bella del mondo, ma dopo certo, Radio Padania. Del mondo, ma chiaro, del mondo interstellare. Dopo dopo Goldrake, a parte che preferivo Wonder Woman, ovvio. Ah, ovviamente, va bene, dopo Radio Padania siamo la seconda radio migliore al mondo, vabbè, che non è male, ci piazziamo, un buon piazzamento, devo dire. Vladimir Luxuria, Goldrake era tra i tuoi, non so, tra i tuoi cartoni preferiti? Che arriva Goldrake? I cartoni animati giapponesi non è che mi piacessero così tanto. Erano tutti giapponesi. A parte Lady Oscar, Lady Oscar era una che mi piaceva. Eccola. E poi comunque tu l'hai pronunciato bene, Goldrake. Mentre Renzi diceva sempre Goldrake. Sì, Goldrake. La Fiorentina, Goldrake, quindi Lady Oscar, Goldrake invece no. Io guardavo Gigi Robot d'acciaio, era un po' strano, ma insomma c'era anche Goldrake. Tu, Aurora, come... Vabbè, Heidi, beh, anche Heidi, anche Heidi. No, poi i manga sono straordinari invece, una grande cultura nipponica che adoro. E invece Dolce Remy, chi è che se lo ricorda? Dolce Remy. Era un po' triste. Povero. No, era un bambino orfano, piangeva. Era un po' triste, che devi fare? Prendi cose divertenti come la legge elettorale, dai, che mi appassiona. Sì, adesso Heidi mi divertiva perché era una a cui sorridevano i monti e le pecorelle dicevano ciao. Le caprette. Nonna che le caprette. Capra è una cosa, la pecora è un'altra, ragazzi. Gli ovini, studiare gli ovini. Senti un po'. Monti, Heidi. Ecco, senti. Caprette, Vladimir, e quindi ti piaceva per questo. Vabbè. Soffriva di allucinazioni da bambina. No. Vabbè. che dobbiamo fare? Allora dobbiamo parlare di legge elettorale. Hanno fatto la norma contro la Lega, hanno escluso la Lega che governa tre regioni. Calderoli oggi sul Corriere della Sera dice: si sono messi di traverso dei partitini, gente attaccata alla poltrona, escrementi che laveremo via con lo sciacquone. Aurora Lussana, ma dai. No, vabbè, io vabbè, come tu sai, sono un po' presa perché qua devo controllare le agende pubbliche di tutti i ministri e, sì, oggi la Padania, vabbè, dobbiamo pubblicare l'agenda di Zanonato. Da quando pubblichiamo l'agenda di Zanonato anche Renzi e la Serracchiani lo vogliono far fuori, portiamo un po' rogna, mi pare di capire. Vabbè, comunque fra un'agenda e l'altra, sì, ieri è arrivata questa bozza, questo testo base della legge elettorale intorno alle 20, mi pare, in prima commissione alla Camera, tutto un po' in ritardo. E va bene, ovvio, la Lega sono due anni che fa un'opposizione durissima, vi vogliono far fuori. Persegue questo modello elettorale turco, un po' un modello ottomano, lì lo sbarramento è al 10 e cosa vuoi, un movimento territoriale che fa opposizione durissima. Settimana scorsa volevano chiudere la Padania, perché sai, abbiamo toccato l'intoccabile, adesso magari l'immunità razziale, queste cose sì, però è il contrario, cioè andando. È il contrario, voi volevate la legge elettorale nella quale, siccome siete una forza radicata su tre regioni importanti, allora ci voleva in qualche modo un'esclusione per la Lega ad legam ma no, in un sistema democratico, se ci sono forze territoriali che adesso sono due anni che sono all'opposizione, non è che perché sono scomode te le devi far fuori come fanno in Turchia gli ottomani. No, ma bisognava fare una norma, cioè bisognava fare un'eccezione apposita per chi... Ma io questo sinceramente non te lo so confermare perché non so, io ho avuto modo di parlare anche ieri con Salvini, so che è vostro ospite più tardi, sì, magari lui ne sa di più, però io non credo che c'erano dei parlamentari, degli esponenti illustri che in queste trattative avrebbero fatto un favore alla Lega. La Lega, insomma, non lo so, in questa fase vogliono escludere la Lega, Vladimir Luxuria, vogliono cacciarli dal Parlamento. Sai che Umberto Bossi ha detto: se ci cacciano dal Parlamento faremo una lotta di liberazione. Erano lontani i tempi in cui faceva schifo il Parlamento, devo dire che no. Vladimir, Si dice che la politica buona è quella che pensa alle prossime generazioni e non alle prossime elezioni, mentre vedo che tutti i partiti pensano solo a se stessi, anche in questa, nel progettare la legge elettorale. Io sono una persona che crede che, insomma, l'idea che un partito che non raggiunge l'8% e che rifiuta di mettersi in coalizione non abbia nessuna rappresentazione in Parlamento sia qualcosa di poco democratico. E quindi fare una lotta un po' più generale su questo, mentre vedo che, insomma, si fanno delle lotte per i propri interessi, perché anche un partito come la Lega, un partito sicuramente importante e che io non vorrei far sparire da un punto di vista facendo una legge che esclude la rappresentanza dei leghisti al Parlamento, sebbene io la penso in maniera proprio opposta a loro, dovrebbero fare anche una lotta più generale per fare in modo che tutti siano rappresentati, non solo per pensare a loro, perché anche l'idea di fare solo una legge che in qualche modo consente a un partito che ha dei numeri in più solo in certe regioni, credo che siano degli interessi molto particolari. Hai visto, Aurora, che Vladimir un po' di... difende il diritto della Lega in Parlamento, no, nonostante non sia certamente una leghista, questo dobbiamo dirlo. In questo caso delle opposizioni, perché insomma... Posso dire una cosa? Sì. Io farei una legge anche perché qui si dice dobbiamo fare questa legge per evitare, no, tanti partiti, ma in realtà voglio dire, Renzi sta prendendo gli accordi con Alfano, che era uno che sta guidando un partito che prima non c'era, perché la gente ha votato PDL. Allora io farei una legge che eviti la proliferazione dei partiti una volta, perché qui facciamo le leggi per dire dobbiamo fare il bipartitismo e poi c'è un tasso di natalità dei partiti successi dopo le elezioni che è davvero l'unico tasso positivo in Italia, visto che di figli se ne fanno pochi. Vabbè, intanto c'è chi, insomma, Renzi è un po' in difficoltà su questo, il rimpasto è stato rinviato, lui vorrebbe cacciare, pare, Zanonato, come ha detto Lussana, infatti la Serracchiani subito, poi vorrebbe cacciare Giovannini, vorrebbe cacciare la Cancellieri, vabbè, sul caso Ligresti, vorrebbe cacciare la Carrozza perché ha fatto il pasticcio degli insegnanti, li vuole cacciare più o meno tutti con questo rimpasto. Che lo faccia? Beh, ne mette altri, non è che ce ne sono altri, non è che. Poi forse Saccomanni, ma forse Saccomanni no, nel colloquio con il capo della Repubblica forse ha salvato Saccomanni. Beh, c'è uno che ce l'ha e ogni giorno sforna delle battute su Renzi, mica male. Sentite Civati che pensa di Renzi, La polemica, certo che è stata accesa, certo che Renzi ha dei toni molto forti, a volte c'è un mio amico che dice che è pesante come una peperonata, no? Cioè lui è così, e forse, però lo sapevamo. È pesante come una peperonata, Aurora Lussani. Ma ti è simpatico Renzi o ti sembra un po' effettivamente al di là di Goldrick, le battute, un po'... o è pesante come una peperonata? Ma forse... te l'ho detto, cioè a me mi sa di venditore, cioè nel senso non è proprio... umanamente, è proprio umanamente più che politicamente che non riesco. Se lui ha detto grande sintonia con Berlusconi, cioè lui è una figura che così molto televisiva. A me piacciono i politici veri e lui è un pochino troppo show. Io preferisco uno sciamano, uno showman, e lui è un po' troppo showman. Dallo sciamano meglio dello showman. Vabbè, qua siamo alle battute come Renzi, No. Vladimir Luxuria ti piace, ti convince, c'è qualcosa, io non riesco ancora a inquadrarlo bene, convince, non convince, è pesante come una peperonata, non lo so. Buona la peperonata, sì, devo essere sincero. Lo so, però è pesante, appunto. No, dipende da che ora del giorno la mangi, dai. Se la mangi a pranzo va bene tutto il tempo di smaltirla, quindi bisognerebbe sentire Renzi solo di giorno, non la sera, non a porta a porta, ecco. Secondo Civati. Dopo le 20, il blocco anti-Renzi, dopo le 20 Renzi vietato in TV, radio, tutto, no? Però non criticherei Renzi per la sua capacità di comunicazione, che invece io trovo che sia un pregio di Renzi, cioè dobbiamo mettercelo bene in testa che nella società di oggi una persona deve essere capace di comunicare, a volte è più importante, lo dico ahimè, più come riesce a dire le cose che le stesse cose che riesci a dire, perché la gente ha bisogno di qualcuno che ogni tanto faccia la battuta, certo. Magari per questa battuta qualcuno si dimette da solo, vabbè questo è un altro discorso, però insomma di una persona che sappia anche comunicare, questo... l'effetto diciamo così carismatico di un leader la Lega sa bene che è importante. Sì, passa più il modo di come dice le cose piuttosto che il contenuto stesso delle cose, quasi come Cooperlo che ieri mi hanno detto si è presentato da Lilli Grube e c'era Miriam Lucchetti oggi qui in redazione, ha detto l'ho visto, ha detto mezz'ora, non ha detto niente, così la sputtano un po' anche, cioè, non ho capito, l'ho guardato e ho detto beh ma oggi avrà qualcosa da dire, ma mezz'ora niente, non so cosa ha detto, il partito del PD non è una caserma, questo ha detto, sentiamolo, è il concetto più clamoroso. Ma è importante come costruisci la convivenza dentro un partito, che non può essere una caserma, dove il primo che dice una cosa che non va bene viene apostrofato non per il merito di quello che ha detto, ma per la logica che dietro quell'argomento ci sarebbe un'altra finalità. No, questo non va bene, io non l'accetto. Ecco qua, ecco, Aurora, hai capito? Non è, questo è il concetto più profondo, credo, uscito dalla chiacchierata con Lilli Gruber. Va bene, dimostrazione che io non ho un pregiudizio nei confronti di quelli del PD, ti dico che ho sempre provato, ho avuto modo anche di conoscerlo, intervistato, molta stima per Bersani, quindi voglio dire che umanamente aveva una cifra notevole, insomma, anche adesso che insomma ha dimostrato anche concretamente. Io l'ho visto, l'ho conosciuto a una festa della Lega, guarda Bersani, grande capacità di, insomma, di fare anche un confronto concreto, sì. col pubblico, così, quindi voglio dire, ecco, umanamente ero molto più vicino a una persona, forse saranno state le sue origini popolari, provinciali, non lo so. Piuttosto che Cooperlo. Va bene, andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Poi voglio capire un po', cioè Berlusconi che fa la remise in forma, lì è a fare la dieta, vorrei da Vladimir Luxuria tra poco un parere su Berlusconi che fa la dieta. E poi qua adesso c'è la Padania, vediamo un po' le agende di alcuni ministri. Tra l'altro, Aurora, ascolta la segreteria, credo ci sia qualcosa anche per te, tra poco. 24 mattino. Cosa ne pensi di Renzi? È un fanfarone anche lui. Dice delle cose e poi dopo ne fa di altre totalmente opposte. Non è possibile potersi fidare di questa persona. È proprio un altro politico italiano. il signor Alfano, Angelino, che domenica sbandierava abbiamo vinto, non ci hanno soffocati in culla, eccetera, eccetera, eccetera, farà la fine del signor Gianfranco Fini, farà la fine che merita, è meglio che si cerca il lavoro, perché sicuramente alle prossime elezioni verrà trombatissimo e sarà disoccupato. A proposito di Renzi, mamma mia, ma quando abbiamo più un altro politico così? È da 20 anni che non vedo una persona, un politico, parlare in quella maniera. Lasciamoci spazio, che ci guarirà tutti, guarirà tutta questa politica di merda che c'è in giro. Forza Renzi, vai avanti, spacca il culo a tutti, rompi gli equilibri, ma un avvertimento, stai attento, anche dagli amici, perché l'Italia è piena di traditori, è sempre stata così, guarda la storia. È fotonica la vostra trasmissione, Milan è fotonica. Avete la capacità di far risuscitare i morti. Ho appena sentito Aldo Fabrizi, pago la vaccinara, un paio di mesi fa Totò, ma è troppo bella la vostra trasmissione. Eccoci qua, e allora, il traffico lo recuperiamo la prossima volta, è saltata la linea, non c'era niente per te, Aurora Lussana, vedi, falso allarme. Pensa ci fosse un messaggio per te di qualche ascoltatore, così ti ho messo un po' sulle spine, e invece nulla. Senti un po', Vladimir, hai visto che Berlusconi sta a fare la dieta, scrive il giornale, tra altro che peperonate, tra carote alla julienne e abbondanza di tisane, si deve rimettere in forma per apparire in TV, deve perdere 7 kg in 7 giorni più o meno. Se sono gli effetti, sai, dopo aver fagocitato Fini, Italo Bocchino, insomma uno mette un po' di peso. E poi certo si sa che anche l'attività sessuale in qualche modo fa ridurre le calorie, e ultimamente ha dovuto un po' ridurre Berlusconi, quindi non gli rimane altro che rincorrere Renzi, farsi rincorrere da lui, così magari potrà continuare a perdere un po' di calorie, oltre alle tisane e le carote, e questa volta non intere, ma insomma la julienne. Alla julienne, fai la brava. Sì, vabbè, si rimette in forma. Cioè, ecco, Aurora, tu che sei direttore di un giornale, se un capo di partito ti avesse chiuso in una beauty farm per 7 giorni, pensa a Giovanni Toti, poveretto, si è affacciato tutto vestito di bianco come il Papa, con una tuta a fianco a Berlusconi, e poi lo vedi allegro, sorridente. Io non ci posso credere che tu sia sorridente per 7 giorni a stare in una beauty farm con Berlusconi. Il mio leader di partito. Esatto, col leader di partito. A parte che è un posto meraviglioso. Sì, no, ma sicuramente 2400 euro al giorno. È una meraviglia, bellissimo, una meraviglia andare in quel posto. Io ho visto il leader della Lega che dopo un mese che è segretario è decisamente smagrito, parlo di Matteo Salvini, ho avuto modo di vederlo ieri, altro che remise in forma alla Maison du Relax. È un mese che sgambetta probabilmente è dimagrito, quindi secondo me far politica, farla con passione, fa dimagrire. Dimagrisce. Ma come, il magna magna fa ingrassare? Il magna magna. Ha fatto i presidi e i caselli. Ma io non ne ho visti molti dimagrire, Vladimir. No, perché poi ci sono, soprattutto quando fai le campagne elettorali, dopo ci sono le cene, le tavolate. Con tutte le persone dei territori che hanno organizzato, e ti assicuro che si mangia tantissimo. Certo, vai lì, un panettone, anche voi, Aurora, dai, una polenta di qua, un panettone. Una polenta uncia di qua, un panettone di là, sì. Una bisciola di Valtellina, Una cassola. Di la verità. Altro che peperonata. Altro che. Vabbè, dalla Padania oggi l'agenda qui se sil chienghe. Tra l'altro, questa cosa, ma perché fate apposta a pronunciarla tutti male? Chienghe, non è difficile, chienghe, così, non... Aurora, invece... italianizziamo. Chienghe, fate apposta, già dal cognome, a far capire che non è italiana, è più italiana di voi, Sì, sì, Ma io sono rispettosa di tutti i popoli, di tutte le piccole patrie del mondo, non penso che la cittadinanza italiana abbia un valore superiore alle cittadinanze, che ne so, congolesi o vabbè. Comunque continuate qui, Cécile Kyenge, però avete messo anche qui Flavio Zanonato, Anna Maria Cancellieri, Enrico Letta, vi siete salvati in corner, si direbbe, con una metafora calcistica. Ma no, era stato un trappolone, era una trappola per gli indignati di professione, che sai, la Bild metteva le donnine nude, noi sappiamo che a sinistra gli indignati speciali si eccitano a immaginare leghisti a caccia di stranieri e allora ci sono cascati tutti, ci sono cascati tutti. Anche Vladimir Luzio c'è cascata. Voglio proporre a un qualsiasi giornale di fare anche l'agenda, di sapere l'agenda, dove va, gli incontri di Cota, che è un altro che secondo me a livello di clandestinità insomma ne sa qualcosa, visto che ha occupato clandestinamente un posto che non gli competeva. Vabbè, è stato eletto, è dai piemontesi, con un po' di firme false, mettiamola così. Si chiama democrazia. No, si chiama clandestinità, questa si chiama clandestinità, perché una persona ha occupato clandestinamente un posto, solo che se ha la cravatta ed è istituzionale, è un presidente, non si dice niente. Se invece uno che ha un colore di pelle diverso, tutti pronti. Ancora questa storia, non creiamo l'alibi. Hanno fatto pure il ricorso al Consiglio di Stato. Ci fanno solo un favore, no? Queste dichiarazioni un po' così da salotto, molto borghesi, contro l'allarme e il razzismo nel paese. Dalle mie parti c'è un disoccupato, un esodato, un cassa integrato per famiglia, c'è dalle mie parti un giovane su due che è disoccupato, e vedere queste battaglie contro l'antirazzismo tipiche un po' così. Posso dire che un disoccupato è anche molto arrabbiato quando viene a sapere che un politico utilizza i soldi del finanziamento pubblico per comprarsi cose personali? Guarda, io non ho fatto il parlamentare come te, i miei rimborsi spese non esistono neanche, quindi sono io la prima che mi irrito su questo. Cose. Su questo però la Lega un pochino ha qualcosa. Sì, vabbè, A furia di dire i ladri agli altri, guarda, uno poi alla fine si immedesima. Questa non è male, come stoccata, cara Aurora, capito? È scomparsa. Aurora, dove sei? No, vabbè, insomma, va bene così, dai. No, vabbè, ma cosa c'è? No, vabbè, ma se uno mi viene a dire ladro, cioè, capito, cioè, adesso, voglio dire. Vabbè, ma adesso si riferisce a quelle che sono le vicende che sono andate sui giornali, dai, tu dici una Lega passata, abbiamo fatto pulizia, però, insomma, anche la Lega ha avuto dei suoi problemi da questo punto di vista, no? Allora, ci sono delle inchieste in corso, ti assicuro che i primi a essere... Io sono il giornale che comprano i militanti tutti i giorni, costa un euro al giorno e qualcuno mi chiede se può passare in redazione a recuperare una copia perché magari un euro fa fatica a tirarlo fuori ogni giorno. Io parlo con quei militanti lì, ti assicuro che i primi a essere incazzati, profondamente feriti, ovviamente sono i militanti. Sono tutte inchieste in corso. Poi va bene che uno si eccita a pensare alle mutande color kiwi di Cota, poi ci sono i buchi di bilancio siamo a un milione di euro al giorno di buco di bilancio del Comune di Roma, regioni che sforano, va bene, si facciano in fretta queste inchieste, non dopo 4 anni. Ecco. Va bene, dai, ci fermiamo qui. Grazie Aurora Lussana, direttore della Padania, direttrice, capissima, e a Vladimir Luxuria, alla prossima, Giornale Radio. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. E allora alle 7:18, eccoci, cari ascoltatori, pronti a leggere i giornali. Oggi parleremo dell'attualità politica, cercheremo di capire, visto che appaiono i primi scricchioli sui giornali su questo Italicum, le prime problematiche, le prime divisioni. Ma come, non era tutto risolto? Ma no, che non era risolto. Non fatevi abbindolare, cari italiani. Siamo nel corso della 38esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché nel corso della 38esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Vabbè, quella ormai... anche loro non ci credono più. Comunque ne parleremo di questo, cercando di porre una domanda molto semplice: secondo voi, cari italiani, Renzi ce la farà? Renzi, Berlusconi, in questo accordo si imporrà questo accordo che prevede, tra l'altro, la legge elettorale, ma prevede anche l'abolizione del Senato, le riforme, l'abolizione del Senato. Ve li vedete voi i senatori che all'interno di questo pacchetto di riforme votano una riforma che prevede l'abolizione di se stessi, tra l'altro, o la trasformazione del Senato? Se la vedete e se ci credete, ditecelo. Ne parleremo alle 8:15. Con noi ci sarà Matteo Salvini, che è il segretario della Lega Nord, ci sarà Maurizio Bianconi del partito Forza Italia, avremo anche Claudio Velardi, che è esperto comunicatore, esperto di quello che accade in Parlamento. Ora andiamo a leggere i giornali e poi approfondiremo quel tema più avanti. Quando è giovedì 23 gennaio, non ricordavo che giorno fosse della settimana, giovedì 23 gennaio, intanto i titoli, Il Sole 24 Ore: per i debiti della pubblica amministrazione restituiti 22 miliardi, questo è il titolo di prima pagina, è una buona notizia. È quanto è stato erogato, l'1,6%, l'equivalente dell'1,6% del PIL, questo ha annunciato il Ministero dell'Economia. E poi eccola qua, legge elettorale, primi ostacoli, il titolo del Corriere della Sera. Per Repubblica, riforme anche Alfano con Renzi. Il Fatto Quotidiano, legge elettorale e rimpasto, Letta ostaggio di Renzi. Il Messaggero, legge elettorale, ecco l'accordo. Per La Stampa viene preso un aspetto della legge elettorale per fare il titolo di prima pagina, ed è questo: nelle liste 50% di donne. Il Secolo XIX, la legge di Renzi e Alfano. Per Avvenire, decolla l'Italicum, frena il patto 2014. Per L'Unità, legge elettorale, si parte. Il titolo invece del giornale, I Volta Gabbana, legge elettorale al via. Mentre Libero titola, hanno vinto gli evasori, irrecuperabili 515 miliardi. Befe radice, solo il 5-6% delle somme non riscosse potrà essere incassato. Anni di blitz, redditometri, persecuzioni, ha spremuto gli onesti più di quanto abbiano punito i disonesti. Mentre Il Manifesto, condono Italicum, si concentra su un disegno di legge contro l'abusivismo che, secondo alcuni, maschererebbe l'ennesimo tentativo di condono per gli edifici in Campania. Ma voglio partire da alcune notizie che certamente interesseranno tutti e sono trasversali al di là della politica. La prima è questa: cari genitori, che siete obbligati a fare i compiti insieme ai vostri figli nel weekend, oppure che siete obbligati ad assistere i vostri figli fare i compiti magari di malavoglia nel weekend, sappiate che La Stampa, pagina 17, racconta questo. È stata scovata una circolare del Ministero dell'Istruzione del 1969 che proibirebbe l'assegnazione di compiti ai bambini nel weekend. E qui ovviamente si è riacceso il dibattito. Peter Bescapè fa un applauso a scena aperta con Ola incorporata. Stai calmo, è una circolare, non è che evidentemente non viene applicata, però questo ha rilanciato il dibattito. Compiti del lunedì, è giusto assegnarli? Questo è il titolo della Stampa, pagina 17, Flavia Amabile. I ragazzi hanno diritto a un fine settimana degno di questo nome, soprattutto ne hanno diritto i loro genitori? Su questo dilemma amletico, didattico, si discute da anni, come emerso due giorni fa quando il sito Orizzonte Scuola ha riproposto una circolare del Ministero del lontano 1969 che impone agli insegnanti di evitare i compiti durante la settimana, il fine settimana. Il Ministero ha subito spento le speranze di milioni di studenti e loro genitori, precisando che la circolare è stata poi superata di fatto dalle leggi successive. Ma intanto il dibattito era partito, riproponendo le divisioni di sempre, più o meno riassumibili in uno scontro tra rigoristi e lassisti, ma anche facendo capire che era una discussione in corso da circa mezzo secolo e che dopo tutto questo tempo ancora non si è trovata una risposta. Il dibattito, insomma, è aperto, certo rispetto a mezzo secolo fa sapere La Stampa, si sono fatti alcuni passi passi avanti, sostengono i professori. Alcuni di loro dicono: mi sembra fuori dallo spazio e dal tempo parlare ancora di circolari o ipotesi nazionali sui compiti da dare a casa. Gli insegnanti più evoluti e innovativi oggi sono andati molto oltre il vecchio modo di fare scuola. Ma certo, il dibattito c'è e la stampa lo rilancia prendendo spunto da questa circolare che comunque, vedi Peter, ho subito spento i tuoi entusiasmi, è stata superata da leggi successive, quindi una circolare non ancora in vigore. No, rimanendo sul tema più istruzione che scuola e più concorsi che compiti, voglio segnalarvi quello che il Fatto Quotidiano mette, mettendo un dito nella piaga su una questione vecchia e che si ripropone a ogni concorso universitario, a pagina 9. Il richiamo c'è anche in prima pagina. Università, il trucco c'è e si vede, l'ennesimo caso di un concorso dove vari candidati avevano inviato al Fatto Quotidiano mesi fa una mail dicendo: tenetevi pronti perché i vincitori di questo concorso saranno le seguenti persone. Puntualmente si è verificata una incredibile coincidenza di lista di persone che hanno vinto: Carlo Di Foggia e Francesco Ridolfi, prof, test col trucco, nomi già scritti prima della selezione. Volevo complimentarvi con voi, sono i primi di maggio quando iniziano a circolare mail in cui compaiono i nomi degli abilitati alla prima fascia, cioè professore ordinario nella materia di storia antica. È uno dei 180 settori che compongono l'abilitazione scientifica nazionale. Si tratta del nuovo sistema di reclutamento voluto dall'ex ministro Gelmini per evitare lo scandalo dei concorsi truccati, dove spesso passava chi aveva il cognome giusto. Lo scandalo invece si ripete, il copione è lo stesso, i vincitori si conoscono in anticipo con studiosi di profilo internazionale con decine di pubblicazioni bocciati e modesti concorrenti promossi. I risultati della commissione esaminatrice sono stati pubblicati infatti solo molti mesi dopo, lo scorso martedì. Eppure gli scambi di complimenti via mail sono continuati ben prima della chiusura della selezione. In ottobre una lista con 15 nominativi viene spedita per raccomandata al Ministero dell'Istruzione, all'attenzione del ministro Carrozza, al direttore generale per l'Università Livon. La stessa lista viene spedita al Fatto Quotidiano, anticipata da una mail il 18 dicembre, quasi un mese prima che i risultati fossero pubblici. L'incertezza è durata fino a martedì, poi la clamorosa scoperta. I nomi combaciavano tutti. E allora, la solita questione, sarà una incredibile coincidenza, può essere anche così. Il Fatto mette insieme un'intervista a Tommaso Gastaldi, uno statistico che anche noi, anch'io invitai per raccontare una vicenda che lui denunciò in passato. Lui oggi racconta: ho pagato con la vita. Il 12 aprile 2006 Tommaso Gastaldi, docente di statistica all'Università La Sapienza di Roma, spedì due lettere, una per sé e l'altra per il suo avvocato, il fratello Davide, nella quale prevedeva l'esito di un concorso per la cattedra di professore ordinario di statistica al suo ateneo, alla facoltà di sociologia. Fa il nome di poi chi effettivamente risulta vincitrice al concorso. Da lì parte ovviamente una lunga battaglia legale, inchieste, querele, controquerele. Ora, alla domanda: professore, cosa ho ottenuto? La mia stanza chiusa per anni e anni, ormai non ci vado più, volevano anche togliermi il corso dopo 20 anni che lavoro. Emarginazione, disprezzo, discredito, diffamazione, con pesanti cause civili di tutti i tipi, colleghi pronti a mentire sotto giuramento per omertà, complicità, ripercussioni sulla vita familiare, tempo e soldi. Se si mettono insieme tutti gli atti, denunce, sistematiche opposizioni ed altrettante sistematiche richieste di archiviazione, si ottiene una pila di carta che arriva al soffitto. Ora preferisco dedicarmi ad attività meno mortificanti, anche considerati i risultati. Tanto il sistema è blindato, denuncia questo professore. Ti scontri contro la disonestà intellettuale, un'immoralità diffusa, con totale disprezzo di qualunque valore scientifico, onestà professionale. Un'omertà diffusa, paura di subire ripercussioni nella carriera, interessi privati e la rapina quotidiana nell'istituzione. Ho visto un professore ordinario di 70 anni girare porta a porta e telefonare per chiedere il voto dei commissari e far passare chi ha deciso lui. altri mentire spudoratamente sotto giuramento, un membro del CSM e senatore intimare al giudice la corretta interpretazione della normativa concorsuale, ovviamente quella che scagiona i propri assistiti. Ho visto il mio ricorso bloccato da ormai un decennio al Ministero dell'Istruzione, ministri che non ti rispondono, ho visto abbastanza da far sparire qualsiasi speranza di cambiamento. Beh, è davvero una testimonianza anche, io lo ricordo, Tommaso Gastaldi è stato nostro ospite in passato, molto scorata a dire, ma insomma ne è valsa la pena, evidentemente no, vista tutta questa battaglia che l'ha visto combattere contro il sistema. Questo come antipasto, dopodiché della politica e della legge elettorale, da qui ripartiremo tra un attimo dopo la pubblicità, state con noi. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, la legge elettorale, sembrava tutto l'accordo, fatto, finito. Beh, certo, ieri è stata presentata la proposta di legge elettorale, il testo, in commissione affari costituzionali, dove dovrà fare il suo iter. E i primi scricchioli, i primi segnali, i primi problemi, così titolano i vari giornali. Intanto è stata presentata, c'è anche il caso Lega, ne parleremo appunto anche con Matteo Salvini. Perché? Perché nell'intesa, l'intesa prevedeva inizialmente, come scrive Lorenzo Fuccaro sul Corriere della Sera, pagina 3, che potessero partecipare alla distribuzione dei seggi le forze politiche che per la Camera avessero superato il 10% in tre regioni e per il Senato avessero ottenuto il 15% in una regione. Insomma, in una sorta di norma salva Lega, qualcuno ha definito, visto che la Lega è molto forte al nord, soprattutto nelle regioni che più contano dal punto di vista economico, vale a dire Lombardia, Veneto e Piemonte. Ecco subito la russa che si inalbera, Berlusconi vuol salvare la Lega e ammazzare gli altri alleati, ma dal carroccio Salvini dice la Lega non ha bisogno di aiutini o leggi elettorali fatte su misura, anche se Umberto Bossi poi ha minacciato ferro e fuoco dicendo se ci cacciano dal Parlamento la Lega è pronta a fare una battaglia di liberazione. Cioè l'idea era quella di salvare anche quelle forze ed escludere dal sbarramento al 5% quelle forze che hanno un forte radicamento territoriale nelle regioni che contano, tanto che sentite come Roberto Calderoli, il padre famoso del Porcellum, e che dice questa legge un po' rievoca la mia bozza di riforma elettorale che poi è stata snaturata nel Porcellum, viene intervistato da Marco Cremonesi sul Corriere della Sera ed esordisce così: escrementi. E chi sono gli escrementi? Alcuni partitini, un tempo li chiamavano cespugli, hanno ricattato il governo, gente che di fronte alla crisi del paese pensa solo alla poltrona, omuncoli della politica, anzi escrementi. Ma insomma, Calderoli, voi volevate essere salvaguardati da una norma ad hoc, ma che? La Lega non ha bisogno di salvataggi, abbiamo sempre superato gli sbarramenti tranne nel 2001, però come esistono salvaguardie per le minoranze linguistiche? Ha senso che si tutelino forze politiche molto importanti in alcuni territori ma senza una diffusione nazionale? Piaccia o non piaccia, la Lega governa le tre regioni del PIL e una tutela del genere esiste anche all'estero, come in Germania, dove lo sbarramento è al 5%, ma se vince almeno tre collegi uninominali rientra nella ripartizione anche del proporzionale. Insomma, Calderoli, faccia i nomi, chi vi ha ostacolato, chi ha remato contro, l'ho detto, i piccoli, pazienza, forze così le abbiamo fatte fuori nel 2002 e lo faremo anche stavolta senza sporcarci le mani, senza carta igienica, basterà uno sciacquone. Così Roberto Calderoli, ma la Lega è molto arrabbiata. Ma certo non è solo la questione della Lega, la situazione è una situazione un po' di stallo, come scrive Barbara Fiammeri sul Sole 24 Ore a pagina 8. Renzi frena sul patto di coalizione e la situazione, che sia una situazione un po' incerta, lo testimonia anche l'editoriale del Foglio in prima pagina. Dovete immaginare, fa capire il Foglio, il paese in questo momento dal punto di vista politico così: dritto al centro oppure a sinistra, per inquadrare il percorso che si prepara a affrontare il governo guidato da Letta, bisogna fare uno sforzo di fantasia e immaginare un furgone con tre volanti che si avvicina a un incrocio senza avere ancora un'idea precisa su quale sia la giusta direzione da prendere. Sul sedile anteriore del furgone, a manovrare i tre volanti, ci sono il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica e il segretario del PD. E se fino a oggi il furgone non è precipitato, il merito non è solo da attribuire al movimento coordinato dei primi due conducenti, Letta e Napolitano, ma anche della scelta del terzo, Renzi, di non sterzare violentemente verso un'altra direzione. L'accelerazione sulla legge elettorale e il progressivo indebolimento di alcune figure dell'esecutivo, De Girolamo, Cancellieri, Zanonato, ha messo però il furgone di fronte alla necessità di scegliere un percorso più sicuro. E quale sarà però il percorso? Che direzione prenderà questo furgone targato Re-Le-Na, cioè Renzi, Letta, Napolitano? Tutto al momento è rinviato a febbraio. Ecco, in Italia è sempre così. Quando c'è un momento di incertezza politica, si rinvia tutto. Eccolo qui, anche sul Sole, infatti. Tutto rinviato, inizia così Barbara Fiammeri, sia la presentazione di Impegno 2014, cioè il programma di governo, sia la nuova squadra di governo, il possibile rimpasto, tutto rinviato. Sta di fatto che però Repubblica fa un retroscena molto interessante, non è firmato perché per il terzo giorno consecutivo le firme di Repubblica non ci sono per una protesta sindacale da parte dei giornalisti. Il retroscena è questo: in questi giorni lo schema politico sembra chiaro, tutti fanno finta di attenersi a un binario lineare. Matteo Renzi lavora al suo partito, al rilancio, alla legge elettorale, alla modifica del titolo quinto della Costituzione, ma in realtà sottovoce si sta componendo un fronte che immagina sempre più forte un blitz e inizia a avanzare un'idea per realizzare le riforme, per dare un senso a questa legislatura. Renzi deve subito sedersi sulla poltrona di Palazzo Chigi. Sono voci che erano circolate, aggiungo io, e che ora però sono corroborate sempre più insistenti, cioè l'idea che se Renzi vuole davvero prendere in mano la situazione deve andare subito a essere presidente del Consiglio. Il titolo del retroscena è La tentazione del governo Renzi per blindare il patto sulle riforme. Ma il segretario del PD non ne vuole sapere, ufficialmente dice a tutti: ho altre gatte da pelare, penso ad altro. Si tratta di un no grazie inequivocabile, eppure da Alfano a settori del PD, per arrivare anche agli alleati minori, tanti hanno chiesto privatamente al sindaco di Firenze: ma non sarà che debba toccare a te subito diventare presidente del Consiglio per portare avanti in prima persona le riforme? Staremo a vedere. Intanto si sprecano anche gli articoli sul carattere di Matteo Renzi. Ma allora vi piace, cari italiani, ne parleremo anche di questo, alle 8:15, vi piace oppure lo trovate arrogante, spocchioso, sempre sicuro di sé? Ha citato anche Goldrake. Mattia Feltri fa una pagina sulla Stampa, pagina 7, l'arroganza in politica, Matteo somiglia a Craxi, si riprende l'intervista che ieri ha fatto Claudio Martelli al Quotidiano Nazionale, a dire: guarda, sembra proprio Craxi, sicuro di sé, arrogante. Ha citato anche Goldrake, tanto che la Stampa va a intervistare il doppiatore storico di Goldrake, cioè Romano Malaspina, 73 anni, marchese, che dice: mi è venuto un effetto strano quando l'ho sentito citare Goldrake. Quella generazione di padri non ne ha avuti, e allora Goldrake era il padre di tutti e era il robot di tutti. Ricevo ancora lettere di persone che in quel robot vedevano una figura che li ha aiutati a crescere. E quindi dice: non scherziamo, nessuno si può appropriare di Goldrake, a Goldrake devo tutto e guai a chi lo cita a sproposito. Insomma, anche il doppiatore di Goldrake se la prende con Renzi e dice: lasci stare Goldrake. Vabbè, la situazione politica è talmente tesa che ieri anche un governatore del PD, Deborah Serracchiani, che abbiamo sentito nel giornale radio, se l'è presa con un ministro del PD, Zanonato. La vicenda Electrolux è una vicenda sindacale, è complessa, il rischio che chiudano e che chiuda anche in Friuli uno stabilimento con gli annessi problemi per le famiglie che perderebbero il posto di lavoro. E Serracchiani dice: Zanonato se ne deve andare, è stato inadeguato su questa vicenda. Secondo il Fatto Quotidiano, le parole di Deborah Serracchiani nascondono in realtà sempre lì Renzi. Renzi sarebbe dietro a queste parole di Deborah Serracchiani, tanto che il titolo di pagina 3 del Fatto è: Renzi licenzia Zanonato e mette Letta nel freezer. Cioè un Renzi che vorrebbe questo famoso rimpasto, anche se ufficialmente dice che del rimpasto non gliene frega niente, ma insomma ci sono una serie di ministri, Nunzia De Girolamo, Enrico Giovannini, Maria Chiara Carrozza, che assicura il Fatto pagherà l'incidente dei soldi chiesti e poi restituiti ai professori, Anna Maria Cancellieri, il caso Ligresti, e adesso anche Zanonato, che non piacciono a Renzi e che potrebbe per questo insomma insistere perché vengano sostituiti. E dall'altra parte invece Forza Italia c'è Berlusconi che sta facendo la rimessa in forma, la remise in forma, è andato in un posto sul Garda a 2.500 euro al giorno, 2.340 euro al giorno, è lì a fare la dieta e ha portato anche Giovanni Toti, direttore di Rete 4. Sette giorni, 7 chili in 7 giorni, il Corriere è un po' impietoso a dire da Sarkozy a Obama, ma anche Fantozzi, la politica del salutismo, no? Ricordate quando per rientrare in forma si va nelle cliniche. Ed è così, carote alla julienne e abbondanza di tisane, questo è il menù per questa settimana per Silvio Berlusconi e immagino anche per Giovanni Toti. Caro Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno. Che figata, una settimana carote alla julienne e tisane. Beh, soprattutto questa, a quella cifra mi viene da credo ci siano altri, lo so, trattamenti, una carote, sauna. Carote, come sì, dire. A noi intanto, beh, oggi saranno c'è i fagiolini carota, da 80 euro al chilo, insomma. Saranno i fagiolini. È una carota gradevole oggi, nel senso che al posto del bastone, insomma, hanno spostato il letto sul Sole 24 Ore, se non l'hai fatto. Puoi farlo senz'altro, il premina il non si paga il 16 di febbraio, si andrà a pagare a maggio e saranno ridotti, quindi una riduzione del costo del lavoro. Siccome non capita spesso di dare queste notizie, tutti i particolari da Davide Colombo e altri colleghi, non in cronaca ma in questo caso a pagina 2 del Sole 24 Ore con le spiegazioni della buona notizia in qualche modo. Altra buona notizia: c'è stato un calo del debito pubblico, non succedeva da un bel po' di mesi, è insomma un piccolo calo, ma come dire, non sono segnali da non sottovalutare. Anche i debiti della pubblica amministrazione, c'è cioè questa che è il titolo di prima pagina, sì, no? Restituiti, sì, sì, il ministero ha detto 22 miliardi. Il problema è che subito l'Europa ci fa sapere che è ancora pochino e quindi su quello lì, diciamo, la notizia sì è buona ma non abbastanza, come dire, ci costa ancora un po' cara, come le carote di cui dicevamo prima, le carote della julienne. Senti, volevo dirti se quei 2 euro che ha in tasca, sì, che continui a dirmi che di avere in tasca, io non so se magari te li sei dimenticati, una volta sei andato in gita in Svizzera a Monte Carlo, no, San Marino, no. può succedere, magari li hai depositati distrattamente in una banca, poi può non succedere, hai avvisato il fisco, può succedere, ti sei dimenticato. Allora, domani dovrebbe essere varato il provvedimento per il agevolare il rientro dei capitali, voluntary disclosure. Ce lo spiega, ce lo anticipa Alessandro Galimberti nelle pagine di Norme e Tributi. Volevo chiederti qualcosa di calcio, ma non mi ricordo più che cosa, non so se te lo ricordi tu. Vabbè, se non te lo ricordi, niente. Ci sentiamo domani. C'è stato un rovescio improvviso ieri qui a Milano, ma non ho seguito bene. Sì, non lo so. Oggi mi hanno salutato moltissimo quando sono arrivato ascoltatori da Udine. Non ho capito. Tanti ascoltatori da Udine ti hanno chiamato. Sì, non ho capito perché, ma voglio dire. Ricordati, ci sono cose più importanti. Molto, che devi pagare la minima. Entro domani. Pensa alle cose importanti, la minima. Esatto. Quindi, se non sai come fare a calcolarla, sai che sul nostro sito www.ilsole24ore.com ci trovi il calcolatore per la minima. Ottimo. Non pensare a queste cose. No, infatti. Ecco, non so neanche a quali cose tu ti riferisca, quindi non. Ecco, ma comunque non pensare a queste cose tristi del calcio. pensa che c'è la Minimo. La Minimo, molto più felice. Va bene. Grazie Mauro, ci sentiamo domani. E, io ricordo, solo per chiudere la questione Berlusconi, Rubiter, olgettine senza paga, scrive Repubblica, vero dramma per le olgettine, dal 2003, da fine del 2013, quindi da un mese, 20 giorni, eccetera, pare da alcune settimane Silvio Berlusconi non corrisponda più la paga alle oltre 30 cosiddette olgettine, i 2.500 euro al mese. E così, a secco, niente soldi, manco una mezza cassa integrazione, via, basta, così assicura Repubblica al traffico. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Allora, le altre notizie sui giornali. Beh, ma che ne pensate del sindaco dell'Aquila Cialente? Il sindaco dell'Aquila Cialente si è dimesso per la seconda volta e poi ha detto no, rilancio, rimango all'Aquila. E ha messo come vice sindaco il PM Trifuoggi, pronto a dimettermi una terza volta. Così Cialente, sono deciso a darmi fuoco per l'Aquila. Ma non so, un'intervista a Repubblica dai toni abbastanza sconcertanti, già il fatto delle dimissioni due volte, tre volte, insomma. Sì, lo so, sembra una burla, ammette lo stesso Cialente, ma è solo amore e responsabilità per questa città. Dopo le dimissioni sono arrivati attacchi durissimi. Compagni di partito, opposizioni, giornali, televisioni, tutti contro me e contro l'Aquila. Ma per difenderla son pronto a dimettermi ancora. Ma son pronto a dimettermi ancora per la terza volta, ma poi sono divisioni farlocche, evidentemente. Ho restituito la fascia tricolore, non mi son presentato in Quirinale e se l'Italia non sarà solidale, farò lo sciopero della fame e mi darò fuoco. Così il sindaco dell'Aquila Cialente. Tra l'altro, a proposito dell'Aquila, vi segnalo il bel lavoro che Mariano Maugeri oggi fa sul Sole 24 Ore. Il titolo è tutto un programma: quanto costa un sisma? Una domanda tutt'altro che oziosa, dice Mariano Maugeri. Ebbene, all'Aquila di più. La cifra stimata nel 2011, cioè 9,6 miliardi, è raddoppiata. Ecco perché tutti i dettagli in questa inchiesta che Mariano Maugeri fa sono il Sole 24 Ore, che trovate a pagina 12. Comunque, insomma, il sindaco Massimo Cialente rinnova, si rilancia per la terza volta e dice sono pronto a dimettermi però per la terza volta se non state tutti con l'Aquila, anzi sono pronto allo sciopero della fame, sono pronto a darmi fuoco. Questa la situazione. In tutto questo, mentre la politica si interroga, giustamente anch'io ho ricevuto su mail, via Twitter, via messaggi, delle sollecitazioni, perché è abbastanza incredibile il, come definirlo, il silenzio stampa, il totale disinteresse della grande stampa per quello che sta succedendo ancora dopo le alluvioni, non solo in Liguria dove si sono accesi i riflettori, ma nel Modenese, dove, come racconta Libero in una pagina di Filippo Manwuller, migliaia di aziende sono in crisi e Modena affoga nel silenzio. Scrive Libero, per esempio, Bonporto e Bastiglia nel Modenese sono sommerse da lunedì, 1000 persone sono sfollate, c'è un disperso, 1800 imprese danneggiate, 5200 addetti, 2000 ettari di terreno agricolo sommersi, secondo la Coldiretti. La politica si balocca con i tira e molla della legge elettorale, le dimissioni di Cuperlo, lo svuota carcere, l'abolizione del reato di clandestinità, insomma, tutte queste cose, e c'è una terra che rischia di annegare, sommersa da un argine del Secchia crollato. Insomma, l'Emilia ferita, che ricorda Libero, esprime quasi il 2% del PIL nazionale e che... di cui nessuno parla, o nessuno ne parla in maniera approfondita o quanto si dovrebbe. Questo è il dato di fatto. In tutto questo si parla molto di politica, ma di questa cosa assolutamente no, come detto. Siete pronti allora, come ha detto Mauro Meazza, a mettervi in fila? L'avete già fatto, la Minimo, ormai è l'ultimo giorno. Come fa sapere il Quotidiano Nazionale, i consumatori sono pronti alla rivolta per questo caos fiscale e per le multe inaccettabili. Mentre Il Giornale con Gabriele Villa fa sapere, a pagina 7, una cosa di cui mi interrogavo anch'io, l'elenco dei comuni di chi dei comuni che non fanno pagare la mini IMU, perché sono circa 2.400 su 8.500 i comuni dove si paga la mini IMU, ma ci sono anche quindi 6.000 e rotti comuni, più o meno 6.000, dove la mini IMU non si paga. E allora Gabriele Villa sul Giornale fa un viaggio tra le giunte che hanno il coraggio, perché? Perché sono quei comuni che non avevano alzato l'addizionale lo scorso anno. Un viaggio tra i comuni virtuosi, definiti così, dove insomma i cittadini sono almeno più fortunati degli altri e non devono pagare la mini IMU. Per quel che riguarda le notizie dall'estero, io vi voglio segnalare con molta attenzione quello che sta succedendo in Ucraina, perché in Ucraina da giorni si combatte per le strade. È una vicenda anche complicata, è iniziata con una protesta di piazza, si può riassumere in tre parole così: ci sono una serie di manifestazioni perché ci si vuole aprire all'Europa, mentre il presidente Yanukovych ha chiuso la possibilità, insomma, degli ucraini di vedere a Occidente, e invece si è rilanciato nel patto con la Russia e con Putin. Da qui sono iniziate manifestazioni che però sono degenerate nel sangue. Ieri dai 3, qualcuno dice 5 morti, il Corriere, sangue nelle strade di Kiev, 5 morti negli scontri tra il regime e i filo europei. L'opposizione dice ora passeremo all'attacco. Nel resoconto di Fabrizio Dragosei, ma anche su Repubblica, nel resoconto da Kiev, che è definito un campo di battaglia, le foto sono emblematiche, addirittura ci sono foto di polizia, della polizia con la pistola, con le pistole spianate puntate ad altezza uomo. Insomma, una situazione davvero davvero difficile, complicata. Anche Avvenire con Barbara Uglietti: sangue sulla rivolta in Ucraina, hanno sparato e ucciso 5 ragazzi, tanto che gli Stati Uniti è pronta già a chiedere sanzioni e l'Unione Europea pensa di sostenere questo tipo richiesta. Staremo a vedere, ma la situazione è in evoluzione, è una situazione non molto bella. Ma siamo al momento conclusivo, al momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali, e credo per il secondo giorno consecutivo che la carta costa vada a Libero con Marinella Meroni. Si parla della crisi di mezza età, e vabbè. E fin qui uno dice ci può stare, no? La crisi di mezza età. Ma cari ascoltatori, la crisi di mezza età di cani, gatti e scimmie che hanno stress e voglia di coccole. Si ricorda per esempio Barbara Streisand, che ha portato il suo cagnolino dallo psichiatra perché il compagno James Brolin, il cagnolino cominciava a detestare la presenza del marito, e allora lo psichiatra ha detto che il cagnolino soffrirebbe di una crisi di mezza età e avrebbe bisogno di maggiore considerazione, così come i gatti. Così come gli scimpanzé, gli oranghi hanno la crisi di mezza età. Cari ascoltatori, vi rendete conto? Il mio gatto, fortunatamente, Zen, non ha neanche 2 anni, quindi è ancora cucciolo. Poi si chiama Zen, non potrà avere una crisi di mezza età. Zen, uno che si chiama Zen, ma Libero, ma ti rendi conto? La carta costa, e qua nessuno se ne accorge, o pochi. Andiamo al Giornale Radio, va, ci sentiamo alle 8:15 a parlare di politica. 24 mattino. Sono le 8:18 minuti in questo istante, eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan, cari ascoltatori. Allora, oggi parliamo di attualità politica, vorrei porvi magari delle domande secche, cari ascoltatori. Per esempio, secondo voi ce la farà Matteo Renzi, e ce la farà, a portare avanti questo accordo siglato con Silvio Berlusconi, a far passare la legge elettorale, a far passare le riforme? Una di queste prevede, per esempio, in sostanza la trasformazione, la cancellazione del Senato come lo conosciamo attualmente. Insomma, quindi vedete realistica l'idea che i senatori attuali approvino una riforma che preveda, tra l'altro, la loro stessa scomparsa politica? Lo so che non sono le priorità degli italiani, voi pensate alle altre cose, alla mini IMU che dovete pagare, alla TARES domani, al lavoro per chi l'ha perso, per chi lo insegue, per chi rischia di perderlo. C'è il caso nuovo politico anche con un impazzimento strano, per cui c'è un governatore della regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, del PD, che chiede che il ministro dello sviluppo economico del suo stesso partito se ne vada. Parleremo, se volete, anche di questo. Comunque vogliamo partire dalla questione legge elettorale, o meglio l'attuale situazione politica, se si riuscirà a risolverla. Per esempio Repubblica ha uno scenario che si profila sempre più insistente come voci, e ve lo svelo subito dopo aver salutato gli ospiti, che sono il segretario della Lega Nord Matteo Salvini. Buongiorno e ben ritrovato, Salvini. Buongiorno e buon viaggio. Così come saluto Maurizio Bianconi, che è deputato di Forza Italia e fa parte della Commissione Affari Costituzionali, dove è arrivato questo benedetto testo della legge elettorale. Buongiorno Bianconi. Buongiorno a lei, buongiorno. Allora, intanto Salvini, partiamo da questo, perché c'è il caso della cosiddetta Salva Lega, cioè la norma Salva Lega. Non stiamo a spiegarla dal punto di vista tecnico, sta di fatto che lei ha già detto: noi della Lega non la vogliamo. Il punto è, secondo lei ci vuole una qualche forma di un qualche meccanismo che faccia entrare in Parlamento anche chi magari non supera lo sbarramento nazionale, ma un forte radicamento territoriale, e voi guidate le tre regioni che sono il motore del PIL in Italia? Secondo lei ci vorrebbe un meccanismo del genere? Ma vedano loro. Guardi, il dibattito è surreale, nel senso che ieri per tre ore mi chiamavano i suoi colleghi giornalisti chiedendomi un commento alla norma per salvare la Lega. Essendo io il segretario della Lega, quindi il legale rappresentante e quello che alla fin fine nel bene o nel male decide che cosa si fa, sono caduto dalla sedia perché c'era una norma per salvare me stesso di cui io stesso non sapevo assolutamente nulla. Quindi i giornali hanno, probabilmente per coprire problemi interni al Partito Democratico, la guerra fra Renzi, Cuperlo, la Serracchiani, Zanonato, per tre ore hanno inventato una norma Salva Lega di cui la Lega non sapeva nulla e che è l'ultima delle nostre preoccupazioni. Facciano la legge elettorale. Se ritengono di mettere degli sbarramenti tali per cui rimangono in Italia solo due o tre partiti, secondo me è una schifezza, secondo me è una legge truffa di stampo fascista, però facciano loro. Quando le dico che non è la nostra priorità, glielo dico di cuore, facciano, è due anni che vogliono fare la legge elettorale perché il porcello fa schifo, facciano quello che vogliono. La giornata ieri l'abbiamo passata cercando di capire come aiutare gli alluvionati dimenticati da Dio e dalla politica in Emilia, in Sardegna, in Liguria. Quindi la legge elettorale hanno ampio mandato, ne parliamo, però quando lei dice se la vogliono filosoficamente, sì, in linea di principio democratico, secondo me escludere dal Parlamento tutti i partiti che non arrivano all'8% è una truffa, perché toglie rappresentanza a decine di milioni di elettori. Però lei dice la fa su altre cose, le facciano loro, però la guerra la faccio su altre però cose. Se la fanno, se no, non chiamiamola norma Salva Lega, se la fanno senza meccanismi, come mettiamola così, preservare anche, non so, forze territoriali, è una cosa che fa schifo, di legge fascista. No, perché c'è un premio di maggioranza del 20%, sì, ci sono le liste bloccate, c'è uno sbarramento che non c'è neanche in Corea del Nord. In linea in principio è una truffa, punto, ma non per la Lega, è una truffa. Penso che chi ci ascolta pensasse che mettessero le preferenze, facessero scegliere i cittadini, coinvolgessero la gente. Quella che sta venendo fuori è peggio di quella di adesso. No, perché sa, Calderoli oggi sul Corriere della Sera dice: si sono messi di traverso i partitini omuncoli che pensano alla poltrona e che spazzeremo via con lo sciacquone degli escrementi. Cioè è molto arrabbiato per il fatto, non chiamiamola Salva Lega, ma è molto arrabbiato per, come anche lei, per questa legge elettorale che escluderebbe forze come la Lega. Vabbè, attenzione, che un partito dello 0,18 non debba essere legittimato a rompere le palle al mondo, su questo siamo d'accordo, però la legge di oggi, ad esempio, se la fanno così, non è un problema per la Lega. Sono in Parlamento, non sono in Parlamento, le mie battaglie le faccio lo stesso, i voti li chiedo a testa alta ai cittadini, non con i trucchetti. Però la legge di oggi porterebbe in Parlamento tre partiti, il facendo vincere la totalità dei seggi, la stragrande maggioranza dei seggi in Parlamento, è un partito che piglia il 35%. È questo che aveva promesso Renzi, è questo il nuovo. I cittadini cosa scelgono? Niente. Dalimonte, che è il guru di Renzi, dice in realtà ne porterebbe 5-6 partiti, ma certo il problema c'è. Bianconi, vogliamo partire da qui? Ripeto, non chiamiamola Salva Lega, ma secondo lei ci vorrebbe un meccanismo che preservi anche coloro che sono radicati nel territorio, oppure bisogna sfrondare via tutti i piccoli, anche i medio piccoli o i medio grandi, e rimanere 3, 4, 5 forze che in grado di governare? Allora, parliamo di politica e poi parliamo di diritto costituzionale. Di politica trovo un'assurdità che un partito che ha la presidenza del Veneto, la presidenza della Lombardia, è stato scippato recentemente della presidenza del Piemonte, non debba avere per principio diritto a seggi parlamentari. Significa assolutamente non solo un danno per la Repubblica, ma un'assurdità che le tre regioni più grandi corrano il rischio di non avere un'importante rappresentanza parlamentare, giustificando poi anche così forze centrifughe, perché non mi avete dato il diritto di star qui, di qua giù faccio quello che voglio. Quindi questa è veramente una cosa che non ha, secondo me, né capo e né coda, e quindi una soluzione andava trovata. Questo è il primo punto. Il secondo punto, che ci possano essere partiti piccoli che effettivamente godano del loro potere interdittivo e non consentano politiche ai partiti più rappresentativi, è un conto. Far fuori partiti che hanno storia, tradizione e un'importante rappresentanza. Io ricordo, sì, ero del Movimento Sociale, noi prendevamo 4,3, 4,4 e 4,2, abbiamo fatto, in Parlamento. Eravamo in Parlamento, non siamo di tradizione francese dove Le Pen col 20 o 30% sta a un deputato, ora mi pare, prima non ce ne ha avuto i punti per molto tempo. E questa è la politica. Poi c'è il diritto costituzionale, hanno fatto un gran parlare di questa sentenza della Corte Costituzionale, non se l'è letta nessuno, perché intanto leggo che c'è gente che parla dei collegi uninominali. I collegi uninominali, questa sentenza li boccia nettamente, perché questa sentenza dice che ci deve essere, va tenuto presente, il principio di rappresentatività. Sì. Cioè, quindi è per un proporzionale spinto, perché dice sì, c'è un principio di governabilità, ma c'è anche un principio di proporzionalità. La Costituzione nostra predilige e favorisce il principio di proporzionalità, quindi il principio di rappresentanza. Questo significa che ancora di più far fuori partiti dal Parlamento è contrario alla legge. Insomma, queste sono anche tecniche. La questione di fondo è capire se Renzi e se questa riforma e se questo insieme di riforme sia possibile. Per esempio, ma lo vedete veramente i senatori che si votano la trasformazione del Senato? Lei, Bianconi, se la vede? Io ho fatto più volte una dichiarazione che anche questa è una delle solite ipocrisie renziane. Renzi è bravo a dire una cosa e farne un'altra. Ha detto che ha abolito le province, in realtà ha messo le province delle grandi città in mano dei suoi amici sindaci. La gente non si legge neanche le leggi, sta attenta ai titoli, è un problema questo. Ci avviamo veramente a un problema di comunicazione diversa dalla sostanza. Il Senato si abolisce chiudendolo, non si abolisce dandogli una inutile funzione di rapporti fra Stato e Regioni, perché dice non ci saranno più gente elettiva, non ci saranno più... Vabbè, almeno non ci saranno le leggi che vanno da una parte all'altra, Camera, Senato, doppia lettura. Questo fa parte di un vizio italiano. Io sono contrario, io lo vorrei chiudere il Senato, vorrei essere più preciso su questo. I rapporti fra Stato e Regioni, come li dovrebbe ragionare, come li dovrebbe fare, sì, il Senato delle, sì, autonomie, che è una sciocchezza, un'utile pletorica sciocchezza, lo faceva la conferenza Stato-Regioni. Quindi non c'è bisogno del Senato. No, non c'è bisogno del Senato. Gli interessi dei comuni in Italia li rappresenta nei confronti del governo magnificamente l'ANCI. Non c'è nessun bisogno di un'assemblea di tromboni che verrebbero a Roma spesati ma non pagati, cioè non stipendiati. Diventerebbe un inutile orpello che avrebbe impiegati, dirigenti, funzionari, sale aperte, stanze, quindi non prendiamoci in giro. Una presa in giro. Salvini, lei è una battaglia leghista, insomma, ma davvero non interessa niente, facciano quello che vogliono, noi facciamo le nostre battaglie. Fa parte del gioco seguire anche queste cose che non mi appassionano, però sì, il Senato federale che rappresenta le autonomie e le regioni, che adesso Renzi ha scoperto, è quello che noi abbiamo approvato al governo come Lega con Forza Italia nel 2006 e sottoposto a referendum, che comprendeva anche il taglio di 200 parlamentari. Il referendum fu bocciato, Renzi votò contro. La prima volta che passa dai vostri studi, per mia curiosità, visto che quando lo intervistano i grandi giornalisti sulla Rai o su Mediaset, sì, fanno domande che neanche che io a mio figlio chiedere 10 anni faccio, chiedetegli: scusi, lei oggi propone il Senato federale il taglio dei parlamentari, ma perché quando lo propose la Lega lei votò contro? Poi vi dirà che ha cambiato idea e solo le persone intelligenti cambiano idea. Ma chi Renzi? Però, questo? Ma non è il Parlamento, cioè quando... No, no, nel 2006, quando ci fu referendum a livello nazionale, io e lei votammo, Renzi dichiarò che bisogna votare contro l'amministratore locale. Ha cambiato idea? Mi fa piacere per lui. Noi siamo coerenti e quindi continuiamo a essere a favore, anche se lo propone lui. Sulle province, posso dare un numero agli ascoltatori? Sì. Se va avanti il disegno di legge del governo per tagliare i costi della politica, che figata, gli italiani risparmiano 32 milioni di euro. Se tu domani mattina chiudi le province stando alla legge del governo, risparmi 32 milioni dai mancati stipendi di consiglieri, assessori e quant'altro. Piccolo problema, secondo la Corte dei Conti ci sono 2 miliardi di maggiori spese per le competenze distribuite e il personale. Ma anche qui, quindi, il ministro Del Rio dice che i risparmi indotto sarebbero poi 1 miliardo per attivare una serie di cose. Poi, La Corte dei Conti certifica che ci sono 2 miliardi di costi in più. Quindi ci hanno menato il torrone per 2 anni, che bisogna chiudere le province, non servono a niente, piccolo problema, si occupano del lavoro per i disabili, si occupano della manutenzione delle scuole e delle strade. E questi passano i comuni. I comuni che non hanno una lira? Evidentemente i soldi che... possono mettere a posto il cimitero, la scuola materna, perché non hanno in cassa una lira? E i comuni gestiscono le scuole, le strade, ho capito, ma non è che se le province non gestiscono, questa è la grande, secondo me è una, un po', mi scuso, la mistificazione a dire se le scuole se ne occupa la provincia, via la provincia, nessuno fanno crollare le scuole, se ne occuperà, avrà dei fondi la provincia per gestire queste cose, questi fondi passeranno al comune e si gestirà la scuola così, o no? Non è che apro l'elenco del telefono, chiami un sindaco a caso di qualsiasi partito e gli chieda: lei fra 3 mesi è in grado di gestire... Ma no, ma gli daremo i soldi, i soldi che le province usavano per le scuole, passeranno ai comuni, immagino, in una logica. E comunque, ai cittadini italiani sto casino, perché sarà un casino inenarrabile, perché dovrebbe succedere fra 4 mesi, questo, costa 2 miliardi di euro. Invece di risparmiare, sta chiusura incasinata costa 2 miliardi di euro. Quindi un conto sono i titoli, i titoloni, le interviste, Renzi va da Fazio che sembra Gesù Cristo che cammina sulle acque, poi uno va a leggere, perché facendo politica dobbiamo anche fare 2 conti, e dice: ma come, la Corte dei Conti mi dice che tutto sto casino, chiudi le province, lo spreco, il disastro, mi costa 2 miliardi in più. Allora, ce la si farà a fare questa serie di riforme. Ripartiamo da qui tra un attimo, anche gli ascoltatori 800 24 00 24. Con noi ci sono Maurizio Bianconi di Forza Italia, Matteo Salvini della Lega, ci raggiungerà anche Claudio Velardi, che è uno spin doctor, cura un sito, è uno che di cose della politica se ne intende. Tra un attimo, state con noi. 24 mattino. Eccoci alle 8:37 minuti per continuare sull'attualità politica insieme a Matteo Salvini e Maurizio Bianconi. Ci ha raggiunto un ospite al quale girerei subito una domanda, che è la domanda che io ho anticipato, si sta profilando sempre una voce sempre più concreta in questi giorni nei palazzi della politica, e oggi Repubblica la mette a pagina 3, cioè la tentazione a dire: ma se Renzi vuole davvero prendere in mano la situazione, fare le riforme e portarle avanti senza veti incrociati eccetera, perché non va subito a Palazzo Chigi, cioè a capo del governo? E la tentazione, scrive oggi Repubblica, del governo Renzi per blindare subito le riforme. Allora, che ne pensate, cari italiani? Lo chiedo a Claudio Velardi, che ci ha raggiunto. Buongiorno Velardi e benvenuto. Buongiorno a voi. Spin doctor, così si dice, no? Velardi. Lasciamo stare queste formulette. La cosa è una grande sciocchezza. Intanto per il primo motivo, che le riforme non le fa, le riforme intendo queste istituzionali, non le fa il governo ma le fa il Parlamento, naturalmente. Certo. Quindi che Renzi sia a capo del governo per fare le riforme non serve assolutamente a niente. La seconda ragione è che Renzi, per fare le riforme, deve restare Renzi, cioè deve restare una specie di marziano nella terra dei zombie, deve sempre di più manifestare la sua alterità, la sua diversità, perché solo in questo modo manterrà un collegamento con gli italiani normali, non con il ceto politico. Poi verrà il momento in cui non c'è niente da fare, dovrà assumersi le sue responsabilità, e però questo lo dovrà fare nel momento in cui prenderà voti e andrà a Palazzo Chigi, come dire, incoronato dalla gente. Cioè la tattica è distinguersi e non immischiarsi nel gran verminaio del Parlamento. Questo è cruciale, per questo non può perdere tempo, per questo non può stare a tutti i giochetti, ai veti incrociati, alle perdite di tempo, alle meline, non può sottostare a tutto ciò. Finora lo sta facendo, ragazzi, perché appunto in un mese, come si è detto, ha cominciato a parlare di cose di cui si parla da 20 anni e a concretizzarle. Ieri è andata una proposta di legge, è stato depositato il testo. Poi naturalmente le cose saranno complesse, perché ho visto, sentivo prima l'ottimo Bianconi, che è uno, è come dire, tra coloro che hanno firmato la proposta, firmato insomma, hanno solo uno, sì, dirigente di uno dei tre partiti che ha firmato la proposta. Che mi pare già diceva che non gli va bene una cosa, è questa la questione. Ragione di più per cui Renzi deve tenersi fuori. Se le cose che ha proposto passano, bene, se non passano, lui deve sparare a palle incatenate su tutti quanti quelli che prima gli danno il via libera e poi gli rompono le scatole. Cioè può dire veramente: adesso chiamate Goldrake, allora non rompetemi le palle. Ecco, questo è il concetto. Bravo, l'ha detto in maniera più sintetica. In maniera sintetica e magari brutale è questa. Bianconi ha capito, cioè lei fa parte di un partito. Bernardi ha fatto una giusta... Sì, però Bianconi lei effettivamente già mette i veti. Si dimentica che io non porto il cervello all'ammasso, e se il mio partito firma una proposta che io voterò, sì, Sarò pur libero di dire che qualche cazzata dentro c'è, e lo dico, insomma, perché prima di tutto il cervello e il buonsenso, e poi l'andare. Altra cosa, l'indisponibilità mia è anche di altre cose, cioè, dire che Renzi è uno che fa le riforme, cioè vogliamo fare il ministero ai miracoli, facciamo Renzi ai miracoli. Ha detto che ha abolito le province, non è vero che ha abolito le province, ha consegnato le province più grosse sotto forma di area metropolitana fuori dal contesto democratico ai suoi amici sindaci che l'hanno aiutato nel congresso del PD. E Salvini sbaglia di mezzo miliardo. Io sono in prima commissione, sì, ho sentito tutta la commissione degli esperti, la riforma del Rio, che non è una riforma ma è una complicazione, costerà agli italiani da 1,5 miliardi sicuro in più, forse 2 miliardi, con inefficienza dei servizi. Questo è, poi i giornalisti possono dire quello che vogliono. Sono anch'io d'accordo che Renzi per adesso Letta lo fa friggere, però è ancora un pochino, perché finché non l'ha rosolato bene bene bene il Presidente del Consiglio non lo farà. E molto bene fare il segretario del partito più grande facendo l'uomo di lotta e di governo, quindi ha una strategia perfetta. Vorrei solo dire perché la cosa giusta che ha detto Velardi, sì, cioè che le riforme le fa il Parlamento, perché nessuno ha fiatato quando hanno pensato di mettere, su indicazioni di Napolitano, un ministro alle riforme dentro il governo Letta, che era una bestemmia totale, ma gliel'hanno fatto fare e hanno lasciato pontificare Quagliariello quasi un anno. Quando è una bischerata istituzionale pensare di avere un ministro alle riforme quando le riforme sono materia parlamentare. Vabbè, non è la prima volta. Non è la prima volta, ma voglio dire, perché ogni tanto questo sistema dell'informazione si muove e si accende le lampadine, sì, sull'ovvio, quando questo ovvio è strumentale. Allora, fatevi sentire l'ascoltatore Paolo da Milano, poi io voglio anche capire, perché giustamente la legge elettorale, come ha detto, e so che Salvini frigge su questi temi a dire: ma chi se ne frega della legge elettorale, parliamo dei problemi concreti delle persone, e questo certamente è sui giornali tante pagine su quello che si muove o non si muove nella politica, e poi le cose che contano non finiscono sui giornali. Il dibattito politico è su questo, e Velardi ci aiuterà a capire anche perché. Paolo da Milano, però, buongiorno Paolo. Sì, buongiorno, cercherò di essere essere telegrafico. Grazie. In linea di principio sono d'accordo con Matteo Salvini del fatto che sia una legge schifezza, quella elettorale, però più concretamente voglio fare una riflessione che giro magari soprattutto a Salvini, ma quante alleanze schifezza abbiamo visto di partiti che si mettevano insieme solo per sopravvivere? Vedi per esempio la Lega con Berlusconi, questo è il paese dei trasformismi, basta pensare a due casi, Scilipoti che è passato insomma da una parte a un'altra e Vattimo che adesso vuole andare con solo per esistere. E l'ultima cosa, il fascismo è una parola che ha fatto tanti orrori, è vero, però torno a una considerazione di questo discorso dell'elettorale, probabilmente si è in pochi e forse si riesce a decidere e a fare di più e a fare meglio, perché siamo stufi di questa situazione parlamentare che poi non porta alle decisioni. A nulla, a nulla. Oggi, grazie Paolo, poi le risponderà a Salvini dopo il traffico, però prima Velardi, oggi ancora sui giornali, anche il Sole 24 Ore, che succede in questo, anzi anche il Foglio l'ha messo, in questa barca che serve, o furgone governato da tre volanti a cui ci sono Napolitano, Letta e Renzi? Niente, non succede, per ora si rinvia l'impegno 2014. 14 rinviato, il rimpasto di governo, una roba da primissima Repubblica rinviato. Claudio Velardi, in questa situazione la politica intanto non fa nulla, questo è il dato di fatto. Perché? Ma questo è il problema che ha la politica, diciamo, da tanto tempo, in particolare da 10 mesi, perché il governo, come dice Renzi con formula felice, chiudete gli occhi e pensate a cosa ha fatto il governo Letta in questi 10 mesi, nulla di nulla. Quindi in qualche modo, se si dà un'accelerata sulle riforme istituzionali, è sperabile che il sistema possa cominciare a funzionare un po' meglio. Questa poi è la risposta che io darei rispetto alla preoccupazione principale degli italiani e anche sua, Milan, perché io l'ascolto sempre ogni mattina, cioè gli italiani pensano ad altro e non alla riforma elettorale. È vero, però se il sistema non funziona e non viene incontro alle esigenze degli italiani, forse se si aggiusta il sistema qualcosa può cambiare. Le faccio un solo esempio, non riguarda tanto la riforma elettorale, ma se dovesse andare in porto la riforma del Senato, e cioè l'abolizione della medievale doppia lettura che esiste in Italia e che quantomeno raddoppia se non triplica i tempi di ogni procedura legislativa, beh, quella sarebbe una piccola rivoluzione. Ma certo, Bianconi ci dice che il Senato delle Autonomie è per il coordinamento con le regioni è una bischerata, perché se ci sei già, c'è già, come dire, il coordinamento Stato-Regioni, ecco. Sì, però attenzione, per esempio il Senato delle Autonomie può anche essere il luogo in cui si recupera la rappresentanza territoriale, quindi anche il problema per esempio della Lega, che riconosco essere un problema, e lì nel Senato delle Autonomie viene perlomeno parzialmente affrontato, perché naturalmente la rappresentanza delle grandi regioni del nord sarebbe significativa, spostando anche poteri, intendiamoci, al nuovo Senato, diciamo così, sì. E naturalmente togliere la cosa alla Commissione Stato-Regione, altrimenti si fa l'ennesima duplicazione. Cioè da questa riforma di sistema potrebbe venire fuori qualcosa di buono. Allora, dopo il traffico Salvini risponde sia all'ascoltatore che criticava, insomma questa legge sarà anche una schifezza, per usare le parole di Salvini, però anche di schifezze ne abbiamo viste di alleanze. E poi la questione dei temi sui quali è più attivo in questo momento, tra un attimo. Allora, Salvini che risponde all'ascoltatore che vi accusava di aver fatto anche voi delle alleanze come quella con Berlusconi. Beh, guardi, ringrazio Paolo per la domanda. Erano alleanze basate su programmi e progetti. Siamo riusciti a portarli a termine tutti? No, evidentemente, perché l'Italia oggi non è un paese né federale né responsabile, però erano basati su programmi. Detto questo, da domani in avanti io non guido una Lega che ha voglia di sopravvivere. Io guido una Lega che preferibilmente vada sola per combattere alcune battaglie. Non è vero che il Parlamento non fa. Preferibilmente cosa vuol dire? Cioè, nel senso, preferibilmente potrebbero esserci anche coalizioni per la Lega oppure da soli? Ma guardi, ad oggi, visto come vota il Parlamento, magari il Parlamento non facesse. Il Parlamento, giusto per stare questa settimana, ha votato lo svuota carceri, che fa uscire anticipatamente migliaia di delinquenti. Ha tolto il reato di immigrazione clandestina. Ieri, nel silenzio di tutta la stampa, su Radio 24 qualcosa ho sentito, ha sostanzialmente sanato 70.000 case abusive a Napoli e provincia, sì, quindi il Parlamento fa. Non è proprio così, cioè, diciamo, c'è un tentativo di un forse un quasi nuovo salvataggio. In base alla legge che hanno approvato, la demolizione degli immobili abusivi a Napoli e dintorni finirà tra 1500 anni. Sì, viene data, viene data alla procura, viene data, secondo la proposta di legge, il dovere di dare da precedenza, di distinguere caso per caso e dare la precedenza ai casi, che ne so, di abusivismo per mafia. Sarebbero censite, vedete voi, cioè, domani c'è la scadenza della mini IMU, della gente normale, in Campania sarebbero censiti 280.000 case abusive. Ma chi, ma dove erano i sindaci, gli ispettori, dove erano? 280.000, punto a capo. Posso dirle una cosa su cui ci siamo impegnati tutta la giornata di ieri e continueremo oggi, perché si ricollega al vostro traffico, che ci sono chilometri di coda sulla A12 per una frana, per l'ennesima frana. La Lega, piccola, brutta, cattiva, ha presentato all'ultima legge di stabilità un emendamento che chiedeva di liberare 800 milioni di euro dal patto di stabilità per usarli per la messa in sicurezza del territorio, da frane, alluvioni. Secondo voi ce l'hanno passato questo emendamento? No, io sfido tutte le forze politiche, visto quello che è successo poi purtroppo in Sardegna, in Liguria, in Emilia. Liberiamo questi soldi che ci sono nelle casse dei per comuni, e li facciamo spendere per mettere a posto, insomma, il territorio, mi sembra per di capire, di piangere altri morti. Mi sembra di capire, Velardi, Bianconi, Velardi, forse anche alla Lega conviene passare un giro fuori dal Parlamento per tornare alla Lega di lotta di territorio, o no? O... Non penso. Io penso che Salvini fa bene anche a collocarsi su un altro piano, quello della mobilitazione sociale sul territorio, fa la sua parte, diciamo, di leader di partito. Però penso che in qualche modo il problema della rappresentanza della Lega tornerà nel corso delle trattative che naturalmente ci saranno in questi mesi, perché il problema è serio e neppure Salvini né Grillo né nessuno può permettersi di passare un giro, perché una volta quando passa il tram si dice dalle mie parti lo devi prendere . E se lo perdi l'hai perso. Sentiamo Maurizio da Roma, ci ha chiamato, buongiorno Maurizio. Buongiorno cari spettatori, io vorrei dire al signor Salvini che sta dicendo una grande fesseria. La Corte dei Conti dice: se la provincia, leviamo le province, ma devono prendere ambe i bagagli con tutte quelle paghe e spostarli alla regione, è normale che ci costa 2 miliardi. Se invece, come tutte le aziende che se ne vanno, che chiudono, quella gente deve ritornare alle mansioni che sono state assunti. Allora c'è risparmio. Cioè, ma quale gente? Le province, gli dico, sono amministratore. Sì. Adesso sti giorni che piove, gli alberi, i pozzi qui vicino Roma, la gente viene a reclamare a noi comuni, perché la signora provincia, io sono andato personalmente, è il rimballo. Ma lei amministratore che vuol dire? Cioè, devono tagliare i rami, pulire i fossi e non si capisce a chi fanno capo. Ma non ho capito, Maurizio, mi scusi. Maurizio, mi scusi, lei è un amministratore comunale, non mi sente. Chiudono, se lei va a vedere quelle case che stanno sulle strade, alle 2 chiudono. Ho capito, Maurizio, ma lei mi sente? No. Vabbè, niente, ma mi sente, Maurizio? Sulla paroma verde, cosa succede? Che dobbiamo fare? Guardate, ci sono le rami in pericolo. Va bene, la ringrazio, Maurizio. Che dobbiamo fare? Abbassiamo, non mi sente, non si riesce a interloquire. Insomma, comunque la sua sparata antiprovincie l'abbiamo sentita, capito, Salvini. E vabbè, è anche Bianconi a dire questa cosa. Bianconi, ma lei Goldrick lo guardava? O era già giovane? Io? Sì, non sì. Non so neanche che è Goldrick. No, ma dai! No, volevo dire, ma dai, Bianconi! Il signore che ha fatto la sparata dice una sciocchezza. E il costo deriva dal decentramento delle funzioni, non dall'accorpamento alle regioni. Cioè, la gente parla perché ha la bocca, insomma, voglio dire. Si possono anche abolire le province. Costa di più, punto. Vabbè, costa di più. Questa cosa che tutto poi, quello che si abolisce in Italia abolire, costa di più. Non è che me ne freghi più di tanto. Cioè, funziona tutto, può funzionare anche meglio, ma costa di più. Ma io non capisco perché in Italia una cosa che viene abolita costa di più. È logico. Perché è un principio che spiegarlo a un bambino di 5 anni sarebbe difficilissimo. No, cioè. No, qui è semplicissimo. Se lei ha un'azienda che ha le funzioni accorpate in un unico stabilimento, probabilmente spende meno che fare una produzione in 10 stabilimenti più piccolini. Ecco, per questo, banale. Ma davvero non vedeva Goldrick? Non sa, ma dai. Non so chi è. Ma so, Goldrake, non so chi è Goldrake, tutte queste cose io l'ho malette, non l'ho mai viste. Capisco, deve essere che un cosa di fantascienza, di fantasia, non lo so. Ma secondo lei che cos'è? Campo bene lo stesso. Sì, poi, ma no, certo. Mi spieghi? No, però mi dica. I fantomas li vedo in politica, c'è Sto Renzi che ora non mettono al ministero ai miracoli. Mi dica, secondo lei, in 10 secondi, cos'è Goldrake? La sua definizione. Non lo so. Una roba di Velardi, facciamo qualcosa per Bianconi, ha bisogno di un consulente di comunicazione. Un corso accelerato, sì. Però sa una cosa, divertente, no. Questo è un piano puramente, comunicativo. Renzi non si scrolla questa, vabbè, sì, che giustamente corrisponde al suo profilo, alla sua età, questa memoria, diciamo, da anni 80 e dintorni. Perché per esempio quella non è neppure né la mia né quella di Bianconi, vedevamo altro. Però secondo me Renzi dovrebbe superare poi questa fase. Basta, io dico, con Ponzi, Goldrake e tutta questa memoria degli anni 80. Sì, sì. Fonzi è più anni 70. Tempo. Salvini lo vedeva Goldrake. Sì. Era uno dei miei eroi, anche se io facevo il tifo per Gigrobo d'acciaio. Anch'io vedevo Gigrobo d'acciaio invece che Goldrake. Va bene, vi ringrazio. Matteo Salvini, Maurizio Bianconi e Claudio Velardi per essere stati con noi. Con Miriam Lucchetti in redazione, con Elisabetta Fusconi, Alessandro Marco Tulli, anche loro in redazione, e con il nostro alpino Peter Bescapè vi diamo appuntamento a domani. Domani è venerdì alle 6.30. A domani. Se dice hai fatto tutto questo, però fai le primarie anziché le preferenze, io preferivo le preferenze. Oh, vabbè, ragazzi, chiamate Goldrake. La domanda finale era: più di così non poteva arrivare. Sì. Alessandro Milan è un eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.